Joya. Perché no? Non ci si può fermare. Parte da questo palco e muove il nostro corpo. E lo suono che ci guida, perché no? Colpendo non fa male. Porto nel cuore questa musica. Scava la mia anima. Corre energia che illumina. Nei miei occhi. Che gioia vederti danzare. Conquista il mio cuore, che gioia sentire la tua energia. Che gioia vederti danzare. Conquista il mio cuore, che gioia sentire la tua energia. Su questo suono costruisco la mia lirica, idee su strofe, e si fa musica idea. Canto l'unica idea che può scalare questa musica e vedere cose che non ho mai visto. Sentire respirare il tuo corpo in una dolce armonia, c'è aria di festa. Che gioia, che gioia vederti danzare. Conquista il mio cuore, che gioia sentire la tua energia. Che gioia vederti danzare. Conquista il mio cuore, che gioia sentire la tua energia. Miscela unica di tanti stili fusi insieme nella musica. La mente stimola, nel corpo mio la mimica esprime il movimento, la passione che la genera. Certo, non ne posso fare a meno. Bene sul male in questa storia io ci credo. Credo e vedo chiaro tutto ciò che mi circonda. Sempre in movimento resto libero sull'onda. E suonerò perché so credere che ci sia molto di più. Vorrei che sbozza via le nuvole dei miei occhi. Che gioia vederti danzare, conquista il mio cuore, che